Gazzettino del 2015. Gazzettino del 2015. 12 luglio 2015. Dagli OGM alla nuova ricerca genetica, amica della biodiversità. Dopo anni di dure polemiche sembra aprirsi una nuova stagione nel settore agricolo. A livello globale, l'attenzione crescente al rispetto della biodiversità e le perplessità sui risultati raggiunti dalla diffusione delle colture OGM hanno spinto diversi governi, tra cui quello italiano, ad investire sul rilancio della ricerca genetica a sostegno della selezione delle colture. Le nuove tecnologie di selezione genetica assistita con metodi molecolari o le analisi sulle caratteristiche epigenetiche stanno permettendo di ottenere sementi ottimali rispettando le varietà tradizionali. Fin qui la notizia del 12 luglio 2015, ma come diciamo sempre, il futuro ha radici nel presente in questo 2012. Il ruolo problematico degli OGM è al centro di Behind the Label, film documentario di Cecilia Mastrantonio e Sebastiano Tecchio, che rivela il lato oscuro della diffusione del cotone OGM in India. Distruzione delle varietà locali, costi altissimi per i contadini, indebitamento diffuso con aumento dei suicidi. Tra gli intervistati c'è un docente italiano, Marcello Buiatti, ordinario di genetica all'Università di Firenze. Lo abbiamo sentito anche noi. Non è cambiato praticamente nulla dal 1996, nel senso che non ci sono nuove piante OGM che siano entrate sul mercato in modo positivo, cioè che siano produttive, siano utilizzabili. Abbiamo soltanto la soia, il cotone, colza e mais di un particolare tipo, cioè semplicemente resistenti ad insetti e a un diserbante. La introduzione degli OGM non ha aumentato la produzione unitaria né nel mais né nella soia, che sono i due largamente più coltivati. Questo qui si può vedere anche dal sito dell'USDA, Dipartimento di Agricoltura degli Stati Uniti. Quello che preoccupa di più per gli OGM è che le imprese che li posseggono non fanno praticamente più ricerca per avere nuovi tipi. Gli OGM sono in mano alle multinazionali, a tre multinazionali fondamentalmente, Monsanto, DuPont e Syngenta, che hanno il monopolio non soltanto degli OGM ma di molti semi e molte varietà. Le imprese, le grandi imprese, guadagnano dalle royalties, cioè dai ritorni dei brevetti. E poi le multinazionali hanno una tale potenza finanziaria che trattano con i governi e alterano le agricolture. Quali sono invece le prospettive positive? Ci sono una serie di tecniche interessanti che permettono fondamentalmente di essere molto più rapidi e molto più precisi nella selezione. Cosa vuol dire fare selezione? Si tratta di selezionare rapidamente, di avere rapidamente dei materiali che sono migliorati. È tutto per questa puntata del Gazzettino del 2015, condotta da Anna Rita D'Ambrosio e curata da Paolo Piacenza. Se volete scriverci, potete farlo all'indirizzo mail gazzettino2015@radio24.it.